tutti noi. Lotteremo sempre con forza e volontà. Vinceremo insieme mille battaglie e poi sul campo i giocatori e sulla curva noi. Innalzeremo un coro. Del calcio sei la stella che sempre brillerà.